9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 18 aprile, fra Galdino, anzi San Galdino oggi, se vi ricordate il frate cercatore si chiamava così nei Promessi Sposi e infatti qua stiamo parlando della cerca, ma la cerca del miglior rendimento per i vostri soldi, soprattutto se siete lavoratori dipendenti e quindi rispetto alle altre quote del reddito nazionale, la vostra quota di reddito disponibile da un bel po' di anni a questa parte è quella che piange di più, perché questo ci dicono in maniera oggettiva e inequivocabile le cifre. La quota del reddito nazionale che va al reddito disponibile del lavoro dipendente, soprattutto nelle qualifiche basse e medie del lavoro dipendente privato, perché nel lavoro pubblico negli stessi anni l'avvaloramento è stato di gran lunga maggiore, bene, quella quota in realtà è tornata a un valore reale, quindi a parità di potere d'acquisto al netto dell'inflazione e dell'impressione nominale di aumento, è tornata a essere inferiore di quella che era 11 anni fa, e quindi il problema da porsi è inevitabilmente quello di rafforzarla, perché senza reddito disponibile nel lavoro dipendente, stiamo parlando di 7-8 milioni di lavoratori e quindi con i loro familiari 14-15 milioni di italiani, non c'è carburante per la domanda interna, per i consumi, e questo è uno dei peggiori difetti del nostro paese, in cui i 2/3 della crescita a breve li facciamo grazie ai risultati dell'export manifatturiero, ma con una domanda interna così piatta di consumi, non possiamo contare sui consumi interni per crescere di più. E allora, alla luce di questa premessa, che è una premessa oggettiva, ci siamo posti due domande che nascono da una proposta che è stata fatta qualche giorno fa dal presidente di Assogestioni, quindi da chi rappresenta l'industria del risparmio gestito, Domenico Siniscalco è un ex direttore del Dipartimento del Tesoro, poi è stato nel 2004-2005, vi ricorderete, per una breve parentesi è subentrato a Giulio Tremonti come ministro dell'economia. Oggi, tra le altre cose, è alla testa dell'associazione che rappresenta il risparmio gestito nel nostro paese, e qualche giorno fa il presidente di Assogestioni ha lanciato una proposta. Ha detto: ma quei miliardi che di anno in anno, dopo la riforma del TFR che è stata fatta 3 anni fa, quei miliardi che sono la parte di TFR dei lavoratori che scelgono di tenerla in azienda per le aziende superiori ai 50 dipendenti e che a quel punto, per disposizione di quella riforma, in coerenza con quanto aveva previsto Prodi da quel punto di vista, quei soldi invece che nelle aziende vengono devoluti all'INPS. In teoria, diceva Prodi all'inizio, servivano a finanziare le opere pubbliche, poi non è avvenuto neanche questo, quindi sono denari che in teoria dovrebbero rimanere lì perché l'INPS li restituisca ai lavoratori quando poi maturano il trattamento di fine rapporto. Invece abbiamo appreso dalla Corte dei Conti qualche tempo fa, e abbiamo fatto un salto sulla sedia, che sono denari che l'INPS riserva e devolve alla spesa corrente dello Stato, contando sul fatto che poi, quando i lavoratori vanno davvero in pensione o chiedono il trattamento di fine rapporto, comunque cambiano rapporto di lavoro, sarà il versamento anno per anno di chi accantona i contributi a consentire il pagamento. Quindi questi denari, a oggi, ci dice la Corte dei Conti, che ha sollevato un grande allarme facendo una quota anche molto rilevante, dicendo che di qui a 10 anni sono ben 30 miliardi di euro, a oggi lo Stato se li è presi, e io ero molto contrario a questo. Ecco, allora il presidente di Assogestione, Domenico Siniscalco, ha detto: ma questi denari, invece che darli all'INPS e non utilizzarli per quello a cui servivano in teoria all'inizio, cioè finanziare le opere pubbliche, perché non trasformarli in uno strumento di investimento che serva a dare carburante finanziario alle imprese italiane? proposta in alternativa, per così dire, a quello di utilizzare il nuovo fondo che il ministro Tremonti immagina di costituire alla francese attraverso i soldi pubblici di Cassa Depositi e Prestiti. In questo caso, dice Siniscalco, sarebbe uno strumento che, provenendo dalle tasche dei lavoratori, perché il TFR sono denari vostri, ovviamente, sono semplicemente accantonati e tenuti lì con un rendimento dello 0,5% anno, essendo denari dei lavoratori, a quel punto l'ingresso di capitale dei lavoratori nelle aziende, inequivocabilmente, oltre che rafforzare e patrimonializzare le aziende italiane che ne hanno bisogno, sarebbe anche un passo in avanti verso un diverso modello di rapporti all'interno delle imprese nelle relazioni industriali, perché i lavoratori metterebbero del proprio nel capitale delle aziende. A questa prima domanda, chiedendovi se siete favorevoli o contrari, associo un'altra proposta. Questa non è nata nel nostro paese, l'ha fatta il ministro al bilancio francese, Barouin, è un ministro di cui i suoi colleghi di governo dicono che vuole sgomitare in vista delle presidenziali del governo successivo, quindi è un ministro che ci tiene, per così dire, a fare proposte anche un po' fuori dal seminato. E questa proposta non è piaciuta molto a Christine Lagarde, la superministra dell'economia francese, la elegante e molto brava collega di Tremonti, che vedrete spesso nei filmati internazionali, sui vertici internazionali, perché una delle poche donne insieme a Elena Salgado, la ministra dell'economia spagnola, che tiene testa ai suoi colleghi nei paesi avanzati. Ecco, la collega dell'economia ha detto: questa è una proposta da Gosplan. Detto questo, però, il ministro al bilancio Barouin ha fatto la seguente proposta. Ma perché, di fronte al fatto che dobbiamo assistere che il più delle aziende quotate è tornato da 2 anni a distribuire pacchi di dividendi ai suoi soci e soprattutto anche mega premi a tutti i suoi manager per miliardi di euro, non dobbiamo introdurre una norma per il quale le aziende che vogliono fare questo, cioè premiare molto con cedole ricche i loro soci e premiare molto con super bonus i loro manager, non li obblighiamo a dare anche a quel punto un bonus di almeno 1000 euro ai propri lavoratori? Proposta demagogica? Sì, però intende porre anche lì un'indicazione per un diverso modello di rapporti all'interno delle aziende. In Italia nessuno è andato dietro a questa proposta, però io vi chiedo con grande sincerità visto che siamo tutti buoni a far chiacchiere sulla necessità di riequilibrare i rapporti nelle relazioni industriali, se non si debba prendere in considerazione anche proposte di questo genere. Naturalmente non si tratta di importare nulla, però la prima è una proposta fatta da un italiano che conosce l'ordinamento, il presidente di Assogestioni Domenico Siniscalco, ripeto, è stato ex ministro. La seconda invece è un po' la boutade, però è una boutade che serve a capire se c'è più spazio per le retribuzioni ai dipendenti senza scassare i conti delle imprese. Però se non li scassano i premi miliardari ai manager e i dividendi ai soci, perché i lavoratori dipendenti non dovrebbero pensare che, tutto sommato, non si capisce come e perché li dovrebbero scassare di più anche premi ai lavoratori. Vediamo con chi ne parliamo in questa prima parte della trasmissione. Abbiamo con noi Mauro Marecchi, il presidente del MEFOP, che è la società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensioni, insegna scienze delle finanze all'Università della Tuscia e è anche alla testa di uno dei 4 tavoli tecnici per lo studio preventivo della riforma fiscale istituiti dal ministro dell'economia Giulio Tremonti. In particolare il tavolo presieduto da Mauro Marecchi è quello che si deve occupare dell'effetto di una riforma fiscale appunto sui conti del welfare e sull'economia delle famiglie. Buongiorno professor Marè. Buongiorno. E abbiamo con noi anche Giorgio Santini, segretario generale aggiunto della CISL. Buongiorno Santini. Buongiorno. Allora Marè, dal punto di, insomma, per come la vede lei queste due proposte, quelle di utilizzare il TFR attualmente all'INPS e con la Corte dei Conti che dice attenzione perché se lo beve la spesa corrente dello Stato, e la seconda proposta un po', diciamo, meno istituzionale, più politica, fatta dal ministro francese che dice: ma perché non diamo anche premi ai dipendenti, visto che diamo mega cedole ai dividendi ai soci e mega bonus ai manager delle grandi quotate? Lei come la pensa, professor Marè? Partirei dalla prima, che è quella su cui ho più conoscenza e posso dire. Dunque, ricorderà, come lei giustamente ha detto, è stata decisa nel 2007. Io allora ero contrario, ma ormai... Però è andata. Diventa difficile modificarla, perché la stima è 6 miliardi l'anno, 5-6 miliardi l'anno, di questo TFR maturando, che viene lasciato in azienda e quindi va a questo fondo di tesoreria gestito dall'INPS. Quindi, prima cosa da sapere, la consistenza di questo fondo, cioè i dati sono sempre stati molto poco trasparenti, quindi sarebbe opportuno capire quanto entra e come viene speso, perché questo, ne assicuro, è stato difficile capirlo nel corso di questi 3 anni. La seconda cosa è la questione che lei solleva, effettivamente, cioè è la questione di non solo di come fa utilizzare questo fondo di tesoreria gestito dall'INPS per non la spesa corrente, ma soprattutto per gli investimenti, per far affluire risorse all'economia italiana. La questione è proprio più generale delle risorse dei fondi pensione che possono agire come stimolo per l'economia italiana. Dico solo una cosa: se andiamo a vedere i dati della Covid, dei fondi pensione nel loro complesso, quelli negoziali, quelli aperti e via dicendo, solo il 2-3% va in titoli azionari italiani, il resto va in titoli obbligazionari o azionari esteri. Quindi l'afflusso di questa montagna di risorse dei fondi pensione, che sono 83 miliardi nel 2010, arriva pochissimo in italiana. La questione è come farli affluire, naturalmente con metodi di mercato, evitando vincoli di portafoglio. Lei sarà contrario, io pure ovviamente, perché magari esercitando moral suasion, oppure, visto che ci sono state forme interessanti di fondi della Cassa Depositi e Prestiti, lei ha visto anche l'ultimo, questo fondo italiano di investimento, o quello sulle infrastrutture, dietro ci sono le banche, che non c'è niente di male, sono d'accordo, non ci sono i fondi pensione, non ci sono le casse, cioè quei polmoni finanziari che hanno potrebbero far affluire, ripeto, nel rispetto del rendimento, del rischio, della trasparenza, della gestione da parte dei lavoratori, risorse all'economia italiana e quindi servire allo stimolo e alle riprese. Sulla seconda la vedo molto più difficile, anche se può essere una buona idea, la trovo più una provocazione. Ecco. Le posso chiedere una cosa? Dal punto di vista, lo chiederemo anche a Mastrapasqua, però voglio dire, per come stanno oggi messe le cose all'INPS, lei che ne è osservatore attento negli anni, una modalità che devolva questi 5-6 più 6 che 5 miliardi di euro l'anno verso uno strumento di mercato che consideri quindi anche poi investimenti necessari ad accrescere, per così dire, con una buona redditività di medio-lungo periodo, l'ammontare del TFR accantonato. Di che tipo di strumenti ordinamentali avrebbe bisogno per essere introdotta? Cioè l'INPS lo può disporre per i fatti suoi? No, occorre una legge? No, assolutamente occorre una legge, credo, ma soprattutto c'è il problema della governance dei conflitti di interessi, perché il problema è sempre lo stesso, cioè benissimo, i soldi stanno nel settore pubblico, come li investe? E lì bisogna che i criteri siano chiari, trasparenti e verificati, perché possono sorgere conflitti di interesse, problemi di governance. Voglio dire, qual è il problema? Che il settore pubblico potrebbe decidere di effettuare degli investimenti legittimissimi, con delle ottime ragioni, ma che non vanno nella direzione della massimizzazione dei rendimenti dei lavoratori, del TFR che ricordiamo è retribuzione dei lavoratori. Quindi è lì il problema: chi decide, chi controlla questi investimenti? Questi fondi, oppure un'idea di un fondo tipo quello appunto che dicevo prima della Cassa Depositi e Prestiti, può essere una buona idea. Le dico però che, essendo 6 miliardi l'anno e data la situazione della finanza pubblica italiana, io la vedo molto difficile una modifica o un utilizzo di questa somma, perché mi sembra di capire che le disponibilità del tesoro non ci siano. Quindi l'idea è buona, va nella giusta direzione, che è quella appunto di chiedersi se non sia possibile un utilizzo più proficuo per l'economia italiana del TFR e delle risorse dei fondi di pensione. Però adesso sta lì parcheggiata presso la tesoreria, pregestita dall'INPS. 6 miliardi non sono pochi e quindi bisogna andarci cauti vista la situazione della finanza pubblica italiana, non possiamo aprire buchi o fare operazioni un po' così avventate. No, chiaro, comunque ci toccherà aspettare il 17 di maggio, perché quel giorno c'è la relazione annuale, quella del presidente della Covip, e sono pendenti anche alcune audizioni in Parlamento proprio a seguito di questo allarme sul TFR che è stato sollevato dalla Corte dei Conti, in merito anche al meccanismo di garanzia su questo fondo, perché la Corte dei Conti ha sollevato dei dubbi sul fatto che la garanzia finale sui fondi accantonati spetti davvero all'INPS o al Ministero, e su questo da recentissimi articoli che sono comparsi sulla stampa economica e finanziaria, la Corte dei Conti stessa dice c'è un elemento di incertezza. Naturalmente, siccome si tratta di miliardi vostri, di lavoratori dipendenti, capite bene che quando c'è incertezza anche su questa garanzia, prima ancora di arrivare a meccanismi di attribuzione di queste risorse a interventi di mercato e non discrezionali, come io sono molto d'accordo col professor Mare, bisognerebbe invigilare. Però è vero che in teoria si tratta di fondi che potrebbero essere meglio utilizzati con un'ottica di bilanciamento, di potenziamento del rendimento, quindi di utilizzi di medio-lungo periodo nell'azionario. Ha senso farlo nell'azionario con periodi medio-lunghi, appunto, perché a quel punto il rendimento diventa maggiore rispetto all'obbligazionario e al monetario, però sarebbe una maniera di destinare una quota non trascurabile, insomma 6 miliardi di euro l'anno di risorse vostre, dei lavoratori dipendenti, mettendoli al servizio dell'economia italiana, accrescendo il montante vostro accantonato e contemporaneamente consentendo a quel punto a chi vi rappresenta anche di avere voce in più, non dico un'arma in più, ma sicuramente voce in più nell'indirizzo di alcune vicende contrattuali come di scelte di politica sociale del welfare. E quindi chiediamo a Santini della CIS, dal suo punto di vista, queste due proposte, quella più provocatoria del ministro francese, diamo i premi ai dipendenti e non solo i denari, i pacchi di milioni ai manager e i miliardi agli azionisti, e poi la prima, quella del TFR, come la pensa la sua confederazione, Santini? Sì, guardi, sul primo punto mi pare, come diceva già il professor Marè, che la cosa essenziale sarebbe quella, come da tempo sosteniamo, di utilizzare il TFR, anche questo fondo che è andato all'INPS, riportando la sua ragione originaria, cioè andare a rafforzare consistentemente i fondi pensione, ridiscuterne anche il bilanciamento e appunto l'utilizzo, parlo ovviamente dei fondi di pensione complementare, e da questo punto di vista potrebbero avere poi una funzione forte anche negli investimenti del sistema economico, delle aziende, con un modello che potrebbe diventare davvero importante e davvero stimolante. Qui bisogna farci una riflessione, la provocazione o la proposta di Siniscalco ha un altro significato, ma si potrebbe sostanzialmente ricomprendere in questo. Perché lei dice un altro significato? Facciamo capire a chi a casa. Beh, perché non mi pare che sia, almeno da quello che si è capito, direttamente collegata ai fondi di previdenza complementare. Mi pare che lui parla direttamente di un utilizzo possibile in fondi di investimento. Sì, quindi sì, lui per fa quanto così. Ci riguarda, sarebbe importante che, essendo soldi appunto dei lavoratori, rimanesse una disponibilità dei lavoratori per poter irrobustire la seconda gamba previdenziale. Sappiamo tutti che ce n'è tanto tanto bisogno. Con un bilanciamento diverso dell'utilizzo di quei fondi pensione si potrebbe ottenere lo stesso risultato, cioè di favorire l'impiego anche in investimenti attraverso, però, ripeto, i fondi pensione, quindi rimanendo nella disponibilità e nel rafforzamento poi del reddito dei lavoratori e pensionistico futuro. Sulla seconda proposta, diciamo che lo spirito è assolutamente condivisibile, poi in pratica è difficile adesso messa così e messa in maniera brutale. Noi crediamo che sia proprio necessario stimolare la partecipazione a tutti i livelli, diciamo, nelle aziende. Quindi se c'è stato in questi anni e c'è stato un eccesso di premi di varia natura, insomma, alle stock option eccetera, alle fasce più alte della dirigenza o i top manager, come si dice, ecco, questa è una strada che non porta molto lontano, come abbiamo visto, anzi può essere perfino patologica. Però, Santini, aspetti, prima di dire come la penso, faccio due esempi, perché così, sì, siamo la radio di Confindustria, poi io mi prendo qualche libertà a volte esponendomi. Sì. Faccio degli esempi. Noi abbiamo grandi gruppi italiani tra le quotate, grandi gruppi, questo riguarda soprattutto i grandi gruppi, molto più che le piccole, medie, che poi non sono quotate, in cui spesso i lavoratori sono più vicini ai manager ed è più complicato fare cose di questo genere. Faccio due esempi. Abbiamo grandi gruppi come Fiat, che per anni è stata al limitare del baratro e ha investito molto poco, e in quegli stessi anni gli azionisti, oggi si chiamano Exor, un tempo si chiamava in un altro modo, hanno continuato a drenare pacchi e pacchi di dividendi. Abbiamo un altro gruppo, Telecom Italia, privatizzato da anni, con forti problemi di debito nelle diverse gestioni private, che ha molto ridiluito, ma molto ridotto il suo recinto ed espulso molte migliaia di dipendenti, in cui sempre i diversi privati che si sono succeduti hanno continuato a tirare verso l'alto pacchi di dividendi per i loro debiti, mentre invece il gruppo diminuiva il suo perimetro, le sue attività e i suoi dipendenti in Italia. Ecco, in esempi come questi, io che pure sono per il mercato, ma il sindacato, ecco, che può fare per dire: ragazzi, ma voi non potete pensare solo alle vostre tasche e poi a ridurre anche la possibilità di crescita? Esatto, la pensiamo esattamente allo stesso modo. Io le stavo dicendo che questa è una, ha assunto proprio una funzione patologica, questa forte, diciamo così, questa piramide molto molto forte in alto. Allora noi pensiamo, proprio nella linea della partecipazione, diciamo sia dal punto di vista contrattuale, sia dal punto di vista azionario, sia dal punto di vista dei rendimenti e quindi anche dei possibili utili, pensiamo che vada fatta una redistribuzione con parametri seri, con parametri corretti, e appunto su questo non possiamo ovviamente pensare a questioni, diciamo, non legate a andamenti reali di produttività, di crescita, di redditività complessiva delle aziende, però detto questo pensiamo che vada fatta una redistribuzione che parta proprio esattamente, in questo caso come dice il ministro francese, dall'insieme dei dipendenti che sono altrettanto dei manager, coloro che contribuiscono a realizzare questo risultato. Una scala parametrale ci può anche essere, come previsto in tutti gli inquadramenti, ma non certamente una scala che ha portato alle cifre iperboliche che abbiamo visto in questi anni. E secondo lei come si fa? Strumenti contrattuali e anche quindi nuovi. Lo si fa con i contratti, mettendosi d'accordo azienda per azienda, non con una legge generale. E noi siamo d'accordo che la partecipazione deve essere introdotta in tutte le forme. Ovviamente noi privilegiamo gli strumenti negoziali perché sono i più, anche i più agili, i più flessibili, quelli che si possono meglio adattare alla capacità e alle singole realtà aziendali. Poi dal punto di vista legislativo ci fosse un qualche elemento di sostegno, di incentivo, che dà più forza, certo, a questa, certo, propensione, non sarebbe quindi sbagliato. Libertà per le parti, però cari grandi manager e imprenditori, questo aspetto del reddito dipendente troppo troppo penalizzato è un aspetto che non fa crescere i vostri gruppi, che porterà certo la vostra indifferenza, molti denari magari nelle vostre tasche, ma che alla lunga uccide le vostre imprese, uccide la crescita del paese. Intanto pubblicità. Eccoci tornati in studio. Le due proposte di cui parliamo oggi per il sostegno, diciamo così, al reddito dipendente dei lavoratori privati sono quella proposta da Domenico Siniscalco, presidente di Assogestioni, ex ministro dell'economia, che dice: perché non destinare quei 6 miliardi di euro accantonati ogni anno nelle aziende sopra i 50 dipendenti e presi dall'INPS, e che attualmente, apprendiamo dalla Corte dei Conti, non abbiamo capito se vanno a spesa corrente dello Stato oppure no, e non devolverli invece a uno strumento che serva, con logica di investimento nel medio e lungo periodo, a entrare a rafforzare l'equity, cioè il capitale azionario delle imprese italiane, che ne hanno bisogno. Oltretutto questo aggiungerebbe anche forza a un diverso modello di relazioni sociali con i lavoratori che impegnino parte del proprio capitale interno alle aziende. Seconda proposta, quella provocatoria, lanciata dal ministro del bilancio francese, che dice: ma insomma, le grandi quotate che danno miliardi di euro di dividendi ai propri soci e danno centinaia e centinaia di milioni di super bonus ai propri manager, non ci sarà e non sarebbe utile un modo per obbligarle anche a dare premi di almeno 1000 euro a ciascun proprio dipendente? Sentiamo come la pensano, prima dei nuovi ospiti in questa seconda parte della trasmissione, alcuni ascoltatori. Cominciamo con Mirko, che chiama dalla Spezia. Prego Mirko. Buongiorno, niente, io sono un dipendente, ho scelto di lasciare il mio TFR in azienda e quindi al fondo INPS. Con quello che avete detto voi in trasmissione, se capisco bene, questo fondo INPS dovrebbe essere reinvestito in fondi di investimento, quindi il gioco delle tre carte. Se io scelgo di tenerlo in azienda e non darlo a un fondo pensione, come io lo scelgo come garanzia mia, perché magari scelgo di avere una garanzia su un investimento che faccio in un altro modo con i miei soldi, certo, anche se non me li dà direttamente, e un domani di prendermeli. Se lo faccio quello che avete detto, cioè viene ridato a un fondo di investimento, poi oltretutto dallo Stato, che nelle scelte dei suoi fondi sarebbe da dire mille cose, perché poi insomma, mi piglierei allora direttamente a un fondo di investimento, direttamente per mia scelta, come previdenza. Certo, certo. Lo Stato quando sceglie deve sempre avere dietro dei pagamenti di sindacati, non come sindacato inteso, come sindacato, come organi di sindacato, come tutte garanzie, mille garanzie, alla fine non rimangono neanche i soldi che gli do. Cioè, allora a questo punto qua dovrebbe essere obbligatorio darli al fondo, come doveva essere dall'inizio, cioè perché la pensione non c'è più, ci hanno detto che ci daranno il 50% della pensione a noi che andremo in pensione tra 20 anni, quindi per forza la nostra pensione deve essere formata da un qualcosa, o che mi danno subito i soldi e mi creo io perché ho le capacità, o subito direttamente ai fondi pensione. Chiarissimo, quindi lei è una proposta che non la convince molto. Sulla cosa sulla proposta del ministro francese, che ci dice Mirko? Quella francese, io sono un dipendente, facile sarebbe dire va bene. Il problema è che secondo me dovrebbero essere meno i bonus ai dirigenti e più lasciare soldi al mercato, perché in quella maniera lì si cresce, soprattutto in Italia dove non si cresce in nessuna maniera. Cioè i bonus, uno ha un suo stipendio buono, che ne so, presidente di una banca per 2-3 milioni di euro, e secondo me quelli dovrebbero essere. Per crescere di più Ora, la banca dovrebbero entrare certo. Anche negli investimenti. Io la ringrazio. Su questa cosa che ha detto, cioè bisognerebbe piuttosto forse limitare un po' i bonus dei manager, non Oscar Giannino, io sono andato a cercare analisi comparate estese fatte sul campione o sul totale delle società quotate al FTSE MIB di Milano, e ho trovato uno studio presentato a Cernobbio da Lambrosetti, quindi non esattamente in un cenacolo considerato pregiudizialmente ostile all'impresa, e a fine novembre dell'anno scorso, è fatto su tutte le società che fanno parte del FTSE MIB, quindi le quotate di Piazza Affari nel 2009, e il totale delle quotate nel 2009 ha registrato una contrazione degli utili nel 2009, quindi stiamo parlando di 2 anni fa, del 38%, la somma dei risultati del totale delle quotate è stato pari a 22 miliardi rispetto ai 35 del 2008, quindi vedete una forte contrazione degli utili, una fortissima contrazione, però nello stesso periodo la remunerazione totale degli amministratori delegati di queste società rispetto, ripeto, a una contrazione degli utili del 38% è salita del 6%. Passando da 1,8 miliardi di euro in totale, arrivando a 1,88 miliardi di euro rispetto a 1,77 miliardi di euro del 2008. Nel 2008 invece la somma dei compensi dei top manager era scesa del 20%. Era scesa del 20% perché? Perché nel 2008... anche in quell'anno gli utili erano scesi del 27%, solo che rispetto al primo anno di contrazione forte di utili e di compensi e di bonus ai manager, già nel 2009, nei primi segni, nel secondo semestre 2009 di miglioramento di uscita dalla crisi, a quel punto gli utili scesi del 38%, ma i compensi migliorati del 6%. Quindi insomma mi pare che... Poi la ricerca proseguiva mettendo a paragone quanto guadagnano i presidenti delle quotate italiane, per esempio, i presidenti, non gli amministratori delegati, rispetto a quelli colleghi di altri paesi. I presidenti, per esempio, nel 2009 hanno guadagnato il 22% in più rispetto all'anno prima, contro il più 4% degli inglesi e un meno 3% dei francesi. E i compensi degli amministratori delegati, invece, nel 2009 del totale delle quotate sono rimasti sostanzialmente stabili. Quelli francesi aumentati del 6%, quelli inglesi addirittura del 22%, però bisogna parlare anche di diversi andamenti di indici. Ma in una scala da 1 a 100, ultimo dato che do prendendolo da questo studio Ambrosetti sul totale delle aziende quotate italiane, in una scala da 1 a 100, dove 100 è il compenso totale del manager italiano, la Francia è a 37 e il Regno Unito è a 27. Come vedete, quest'ultima cifra dice che i top executive italiani avrebbero una parte, questa è la retribuzione fissa, che è molto più importante dei colleghi francesi e inglesi in rapporto alla dimensione dell'azienda. Ripeto, 100 la parte fissa del manager italiano, 37 in Francia, Regno Unito 27. Pare però che malgrado una parte fissa molto più importante e una parte mobile di risultato molto meno rilevante che negli altri grandi paesi, da noi in realtà non se la passino affatto peggio rispetto ai propri colleghi, soprattutto francesi e anche tedeschi, cioè di paesi in cui la dimensione d'azienda e il totale dei loro risultati delle quotate è sicuramente migliore della nostra. Spero di non aver offeso nessuno, ma di questi dati poi bisogna tenere in considerazione. Sentiamo ancora come la pensa Giampiero da Firenze. Prego Giampiero. Sì, buongiorno. Avete toccato moltissimi argomenti, cercherò di essere succinto. Il TFR, io sono un imprenditore impiego circa 310 persone. Il TFR è un qualcosa di estremamente utile al lavoratore, deve essere gestito nella maniera migliore per il lavoratore, sicuramente il renderlo completamente sotto il controllo del lavoratore sarebbe molto buono, però allo stato attuale, come diceva un vostro interlocutore precedentemente, delle finanze italiane è pura utopia. Io non credo che potrà mai succedere. C'è il sistema australiano che viene chiamato The Superannuation Funds, che è eccezionale perché mette tutto sotto controllo di società private, però col controllo del lavoratore, con la possibilità di prelevare i soldi quando uno vuole, prima dei 60 anni pagando una tassa, dopo i 60 anni pagando zero tasse, è un sistema eccellente, ma ripeto, in Italia credo che sia utopia. Anche perché significherebbe aggirare completamente lo Stato e fidarsi molto del mercato, perché quella è una tecnica di gestione molto privata, ma con enormi garanzie però sulla riscattabilità e sul sistema fiscale. Anch'io sarei per quel sistema. Poi diceva? Poi per quello che riguarda i compensi dei grandi compensi, chiamiamo compensi degli amministratori delle grandi società, sono un insulto. Io ho smesso di investire completamente nelle grandi società, a parte che ho lavorato per molti anni per una telecom straniera e ne sono uscito letteralmente schifato, perché non esiste alcuna giustificazione morale né lavorativa che porti delle persone a guadagnare 10, 20, 30 milioni di euro all'anno, nessuna, a meno che uno non sia chiaramente un imprenditore privato, la società sia completamente sua, allora per me può guadagnarne anche 100 da questo punto di vista. Per quello che riguarda invece la partecipazione, diciamo, agli utili dei dipendenti, potrebbe avere un ottimo senso, ma dovrebbe valere nelle due direzioni. Partecipano agli utili benissimo quando la società va bene, ma partecipano alle perdite quando la società va male. Io in 3 anni, nel 92, nel 97 e nel 2008, che sono stati anni abbastanza difficili, io ho tagliato i miei introiti del 25%, quello dei dirigenti del 20%, ma ho lasciato assolutamente invariati gli stipendi del personale e non ho mai licenziato nessuno in momenti di crisi. Ma è chiaro che poi ai dirigenti, che sono quelli che hanno sofferto, o al sottoscritto, nei momenti poi di utile. Ecco, Giampiero tocca un punto, quello della piena compartecipazione agli andamenti, che sono non solo premi quando le cose vanno bene, ma anche disponibilità magari a dare lavoro in più, non con paga in più quando le cose vanno male. All'inizio degli anni 2000 grandissimi gruppi tedeschi, di fronte ai costi dell'unificazione e alla scelta di delocalizzare a est, proposero al sindacato una strada di questo tipo. Le cose erano difficili, si è disposti anche a darci più lavoro senza retribuzione proporzionale aggiuntiva, e la risposta fu sì. Ce ne occupiamo proprio tra poco con gli ultimi due ospiti con cui chiudiamo la trasmissione, che saranno Giorgio Cremaschi, lo conoscete, presidente del Comitato Centrale della FIOM, e Tobias Piller, appunto il corrispondente della Frankfurter Allgemeine, per farci dire da lui come funziona in Germania. Intanto informazione sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, cominciamo allora con Giorgio Cremaschi, il presidente del Comitato Centrale della FIOM. Sì o no alla proposta di utilizzare il TFR accantonato all'INPS per entrare nel capitale delle aziende italiane e contare di più al tavolo delle relazioni contrattuali e più in generale sociali? Sì o no alla proposta del ministro francese di dire diamo anche premi ai dipendenti e non solo premi ai super manager e cedole agli azionisti? Beh, sulla seconda buongiorno intanto. Sulla seconda è chiaro che mi è più facile dire di sì, perché è chiaro che siamo di fronte, ho sentito la sua trasmissione fino adesso, siamo di fronte a una situazione scandalosa, e quindi è chiaro che su questo qualsiasi intervento, visto la debolezza in realtà del sindacato e gli errori del sindacato, lei mi conosce, lei sa che io non sono proprio, non rappresento le posizioni ufficiali del sindacato in Italia, ecco. E quindi, visto che noi abbiamo lasciato in Italia, come in altri paesi, sì, in Europa diciamo, il movimento sindacale, pur avendo una grande forza ancora, diciamo, ha subito, a volte accettato, a volte anche condiviso una colossale redistribuzione della ricchezza a danni del lavoro, è chiaro che qualsiasi intervento che abbia anche il carattere provocatorio di denunciare una situazione di ingiustizia nella distribuzione enorme va bene. Onestamente ho la sensazione che quella legge, conoscendo un po' come sono anche i dibattiti in Francia, non farà molta strada. perché poi anche i francesi stanno, il governo francese sta alla fine, diciamo, il richiamo della grande finanza lo sente e come, e quindi ho l'impressione che sia, come diceva all'inizio della trasmissione, una cosa, una buttata, come direbbero i francesi, messa lì appunto perché tanto comincia la campagna per le presidenziali. Detto questo, è evidente che siamo di fronte a una situazione ormai inaccettabile, secondo me anche per molti imprenditori. Guarda, io ieri sera ero nelle valli bresciane, in una valle bresciana, faccio queste cose, presentare questo mio libretto, Il regime dei padroni, nel quale parlo appunto dei manager, eccetera. E alla fine mi è venuto a parlare un piccolo imprenditore, dice: ma guardi, io guadagno 4 volte i miei dipendenti, quindi non mi identifico, diciamo, nei padroni. È assolutamente vero. Oggi noi abbiamo saputo solo perché le leggi americane lo impongono, ci sono leggi negli Stati Uniti che impongono, dove ci sono i contributi pubblici, di rendere chiaro il moltiplicatore delle retribuzioni cioè dei guadagni, insomma, mettendo insieme tutto, quindi anche i bonus, anche le stock option, tra manager e dipendenti. Quindi abbiamo saputo che l'amministratore delegato della Fiat, grazie, ripeto, alle leggi americane, guadagna come 1037 dipendenti della Fiat. Ecco, io credo che sia un moltiplicatore, ho sentito dire 20-30 volte prima dall'imprenditore scandalizzato, ecco, guadagna come 1037 dipendenti. È evidente che si è persa la misura ed è evidente che c'è una casta manageriale mondiale che si misura, che misura i propri redditi l'uno con l'altro e non rispetto alle aziende che dirige, appunto quello studio che prima sottolineava della Zust Ambrosetti mi pare assolutamente rilevante, insomma, cioè uno studio che dimostra una cosa che si capisce, cioè il mercato, cioè l'andamento delle aziende, che vale ovviamente per i piccoli azionisti, certo, che ovviamente perdono, e per i lavoratori, perché anche i lavoratori, se un'azienda perde utili, qualche cosa gli succede, come minimo la cassa integrazione, spesso non vale per questa mega casta manageriale che sta prendendo in mano il controllo dell'economia. Io credo che questa sia una grande questione di distribuzione, ma anche di democrazia, perché poi diciamo così, incide sui poteri e sulle scelte. Quindi sicuramente tutto ciò che porta a una redistribuzione, a un accorciamento della catena, cioè la catena del valore delle azioni, ecco, bisogna accorciare, secondo me, non allungare, accorciare la catena della distribuzione e della sperequazione dell'ingiustizia, aiuta, secondo me, sia l'economia sia anche la democrazia. Sull'altra questione è molto complessa, perché? Perché, guardi, io tra l'altro, quando è stata faccio parte di quei cattivi che da sinistra, si direbbe, erano contrari alla proposta di Prodi, perché io penso che il TFR sia salario dei lavoratori, che, e quindi ho sentito l'imprenditore che parlava del sistema australiano, che io conosco solo per sentito dire per alcune cose, però io penso che si chiama salario differito, quindi il lavoratore deve essere libero di decidere come investire quel salario, naturalmente con tutte le cautele, non far saltare l'impresa dalla sera alla mattina, come una banca, voglio dire, è chiaro che se tutti i lavoratori ritirano il TFR dalla sera alla mattina della loro azienda, è chiaro che l'azienda ha un buco di bilancio enorme, ci sono regole, eccetera, però insomma bisogna partire dal fatto che è salario dei lavoratori, e con troppa disinvoltura anche il sindacato ha detto: siccome non ci sono più le pensioni, ci mettiamo dentro il TFR, e questo vuol dire che un lavoratore che prima paga tra contributi aziendali e contributi diretti del lavoratore, c'ha quasi il 33% della propria retribuzione investito, diciamo, per la propria pensione. Parlo quelli della generazione mia, cioè quelli che vanno ancora in pensione con le pensioni buone, per capirci, e che con il 33%, diciamo, della propria retribuzione globale, quindi anche con la parte sommersa che paga l'azienda, questo lavoratore si si prende alla fine una pensione tra il 70 e il 75% dopo, dopo 40 anni di lavoro, diciamo, della propria retribuzione, oggi per avere la stessa tipo di pensione, parlo delle nuove generazioni, devono aggiungerci il TFR che è l'8%, 9% della retribuzione, quindi si va a una quota diciamo così che supera il 40, sfiora il 45% della retribuzione per avere una pensione più bassa di quella che ha la mia generazione che pagava il 33%. Ecco, sarà molto questo, più bassa, come no? Tutto questo non va bene, quindi di questo bisognerebbe discutere, perché non si può dare per scontato, questo serve per la pensione, no, serve per la pensione perché c'è da discutere, diciamo così, di un sistema pensionistico che è ancora profondamente iniquo. Detto questo. E temo che lo diventerà di più, cioè io sono convinto che tra pochi anni a pieno regime della Dini, per capirci, quando il tasso di sostituzione per tutti diventerà il 50% rispetto alle ultime retribuzioni, le famiglie per reggere il reddito disponibile dovranno iniziare a vendere le case che hanno, perché io altrimenti non capisco. Quindi questo, allora non è che si dice metteteci, cioè si dice ai lavoratori aumentate i soldi per pagarvi la pensione, ma sono soldi nostri, sono soldi dei lavoratori, quindi non è tutta questa generosità. Detto questo, invece l'altra questione, quella provocatoria che diceva Siniscalco. Ma lì come si fa per lei? È il sindacato che lo mette al centro dei contratti, grande gruppo per grande gruppo, in Fiat, Telecom, quindi con specifiche diverse per gruppo, no, o è la sinistra con una legge? No, io penso che occorre partire da una grande scelta di fondo che non è mai stata fatta in Italia, perché noi continuiamo a dire queste cose in Italia non si possono fare, questo in Italia si fa, diciamo, prima di tutto bisogna separare la previdenza dall'assistenza, cioè la contribuzione effettiva è avere i conti chiari, perché senza conti chiari, lei me lo insegna, non si va da nessuna parte. Allora, il fondo previdenziale, il sistema pensionistico italiano paga un sacco di cose, che è giusto pagare, guardi, ma non capisco perché la contribuzione diretta dei lavoratori deve pagare anche l'assistenza a tutti i cittadini per alcune realtà. Cioè, voglio dire, queste sono cose che vanno ridefinite. Poi, una volta che abbiamo chiari i conti, cioè quanto bisogna versare davvero per avere una buona pensione, allora decidiamo e affrontiamo, ma finché non si fanno discussioni, come si dice, col costo globale consolidato, per cui dici, vabbè, questo è un furto, questo è un continuo furto che viene fatto. E sulla trasparenza che manca, anch'io sono dell'idea che si fanno furti, e questo con tutto rispetto per Mastra Pasqua. Diamo sempre per scontato in Italia che, come si dice nel bresciano appunto, a parte l'affitto, cioè a parte questo, cioè a parte poi discutiamo, no, perché non possiamo discutere davvero del fatto che cioè questo paese rispetto ad altri ha un'assoluta assenza di trasparenza su tante questioni che poi diventano soldi che si perdono o si guadagnano ingiustamente. Allora, un secondo, perché io, siccome a questo punto mi dovrò scusare in ginocchio con Tobias Spiller, che è corrispondente della Frankfurter Allgemeine, perché è chiaro che lo dovrei invitare, perché noi siamo arrivati a 55, io adesso ho un minuto e mezzo e ho fatto una figura un pochino di deiezione. Beh, ci dai solo un'idea, promettendoci di farti riparlare. In Germania entrambe queste cose di cui abbiamo discusso, visto che si dice sempre il sistema tedesco, quella della compartecipazione, avrebbero diritto di cittadinanza o come si regolano? In Germania da un lato è nell'interesse delle aziende dare dei premi, perché altrimenti i sindacati in anni buoni chiedono aumenti di salario troppo grossi, allora si dice meglio che diamo premi in anni molto buoni, perché non sappiamo se possiamo pagare un salario così aumentato ogni anno. E altro punto è che anche la Germania si assogna tante volte delle entità che investono nella propria economia, ma alla fine del giorno si è scelto di fare le cose proprio secondo il mercato, perché lì un po' lo spauracchio nel passato era anche un fondo di investimento gestito dai sindacati. E non si è fatto poi. Alla fine non si è fatto e così la pensione aggiuntiva, la pensione aziendale, viene gestito o dalle aziende ma con un'assicurazione sempre più cara, o da un semplice assicuratore come un'assicurazione a vita. E invece la questione di un limite ai premi dei manager, oppure premi in contemporanea per bonus troppo elevati ai manager, in Germania sarebbe ipotizzabile? In Germania c'è sempre tanta gelosia anche, e così almeno adesso siamo arrivati a dare comunque un numero alla paga di ogni manager, e visto la gelosia vediamo anche che quanto valgono questi manager back e i loro soldi. I numeri comparati, come vedete la trasparenza. Bene, abbiamo dedicato una puntata per questione, insomma, alcuni ascoltatori dicono, beh, non sembra radio di Confindustria, è anche un motivo di onore in piccolo per me, ma non pensiate che pensare a imprese che vadano bene significhi fregarsene dei loro dipendenti, è il contrario, il capitale umano e sociale per tutti, tanto quando si va bene, soprattutto quando si fa male, bisogna stringere la cinghia, senza cedere, mettere proprio i soldi nelle proprie tasche, se si controlla o si guida, levandoli da chi è dipendente, perché lì ci perdono tutti. A domani, Linea Generale Radio.